Non la sola cattiveria, il rancore dell'ex povero contro il padrone che l'ha arricchito e gli ha però fatto sentire, era nel carattere e più ancora nel vocabolario del signor di Charlie, la differenza delle rispettive condizioni, aveva spinto Charlie verso Saint-Loup allo scopo di far soffrire di più il barone. Era anche, forse, l'interesse. Ebbi l'impressione che Robert dovesse dargli molto denaro. A una serata dove avevo incontrato Robert prima di partire per Combray e dove il suo modo di esibirsi al fianco d'una donna elegante che passava per la sua amante, standole appiccicato, facendo tutt'uno con lei, pubblicamente avvolto nella sua gonna, mi faceva pensare, con qualcosa di più nervoso, di più sussultante, a una sorta di ripetizione involontaria ad un gesto ancestrale che avevo osservato in Charlie, quasi sommerso dalle trine di Madame Molé o di qualche altra, bandiera d'una causa ginofila che non era la sua ma chiamava, pur senza averne diritto, inalberare, sia che gli sembrasse protettiva oppure estetica. Durante il ritorno ero stato colpito da come quel ragazzo, così generoso quando era molto meno ricco, fosse diventato economo. Che si tenga solo a ciò che si possiede e che un tale che seminava oro quando ne aveva così di rado tesaurizzi quello di cui è provvisto è certamente un fenomeno alquanto generale, ma esso mi parve assumere lì una forma più particolare. Saint-Loup rifiutò di prendere un fiacre e vidi che aveva conservato un biglietto circolare del tram. In questo Saint-Loup metteva probabilmente a frutto, per fini diversi, talenti acquisiti nel corso della sua relazione con Rachel. Un giovanotto che ha vissuto tanto a lungo con una donna non è inesperto come il pulcello per il quale la donna che sposa è la prima. Era sufficiente, le rare volte che Robert portò sua moglie al ristorante, vedere il modo abile e rispettoso con cui le toglieva il soprabito, la sua arte di ordinare il pranzo e di farsi servire, l'attenzione con cui lisciava le maniche di Gilbert prima che si rimettesse la giacca, per capire che era stato a lungo l'amante di una donna prima d'essere marito di questa. Allo stesso modo, essendosi dovuto occupare nei più minuti dettagli dell'economia domestica di Rachel, in parte perché lei non ci capiva niente e poi perché, a causa della sua gelosia, voleva tenere sotto controllo la servitù, gli fu possibile, nell'amministrazione dei beni della moglie e nella conduzione della casa, esercitare con esperienza e abilità un ruolo che Gilbert, forse, non avrebbe saputo svolgere e che gli lasciava volentieri. Ma probabilmente lo faceva soprattutto per far beneficiare Charlie di ogni minima economia sui mozziconi di candela, mantenendolo largamente, così, senza che Gilbert se ne accorgesse o ne soffrisse. Forse era anche convinto che il violinista fosse spendaccione, come tutti gli artisti. Charlie si definiva tale, senza convinzione e senza orgoglio, per scusarsi di non rispondere alle lettere, eccetera, d'una quantità di difetti che credeva facessero parte dell'incontestata psicologia degli artisti. Personalmente, ritenevo del tutto indifferente dal punto di vista della morale che si trovasse il proprio piacere con un uomo o con una donna, e sin troppo naturale e umano che lo si cercasse là dove si poteva trovarlo. Se dunque Robert non fosse stato sposato, la sua relazione con Charlie non avrebbe dovuto causarmi nessun dolore. Sentivo invece che quello che provavo sarebbe stato altrettanto intenso anche se Robert fosse rimasto celibre. In chiunque altro, quel che faceva mi sarebbe stato indifferente. Ma piangevo pensando d'avere avuto un tempo per un Saint-Loup diverso, un affetto così grande e che, lo sentivo dai suoi nuovi modi freddi ed evasivi, lui non mi ricambiava più. Perché da quando erano diventati suscettibili di dargli dei desideri, gli uomini non gli ispiravano più amicizia. Come era potuto succedere in un ragazzo che aveva tanto amato le donne da disperarsi fino a farmi temere che si uccidesse perché Rachel, comte du Seigneur, era decisa a lasciarlo? La somiglianza fra Charlie e Rachel, invisibile per me, era stata la passerella che aveva consentito a Robert di passare dai gusti di suo padre a quelli di suo zio, compiendo l'evoluzione fisiologica che persino in quest'ultimo non si era verificata che più tardi. A volte, tuttavia, le parole di Aimé tornavano a turbarmi. Ricordavo Robert quell'anno a Balbec. Parlando al ragazzo dell'ascensore, aveva un modo di non badargli che ricordava molto quello di Charlie quando rivolgeva la parola a certi uomini. Ma Robert poteva benissimo averlo preso dallo stesso Charlieu, da una certa alterigia e da un certo atteggiarsi fisico dei Guermont e non dagli speciali gusti del barone. Per esempio, il duca di Guermont, che non aveva affatto quei gusti, aveva lo stesso modo nervoso del signor di Charlieu di girare il polso, come se gli si increspasse intorno un polsino di merletto, e anche nella voce qualche intonazione acuta e affettata, tutti i modi a cui nel signor di Charlieu si sarebbe stati tentati di dare un altro significato, e a cui egli stesso ne aveva dato un altro, giacché l'individuo esprime le proprie particolarità con l'aiuto dei tratti impersonali e atavici, i quali non sono forse d'altronde che particolarità antiche fissate nel gesto e nella voce. In quest'ultima ipotesi, che confina con la storia naturale, non tanto si sarebbe potuto parlare del signor di Charlieu come di un Guermont affetto da una tara e portato ad esprimerla in parte mediante i tratti della razza dei Guermont, quanto del duca di Guermont come l'essere d'eccezione in una famiglia pervertita, così ben risparmiato dal male ereditario che le stigmate esteriori che esso ha lasciate su di lui vi perdono qualsiasi senso. Ricordai che il primo giorno che avevo visto Saint-Loup a Balbec, così biondo, di una materia così preziosa e rara, tortile, col monocolo che gli svolazzava davanti, gli avevo trovato un'aria effeminata, che non era certo l'effetto di quanto scoprivo adesso su di lui, ma della grazia tipica dei Guermont, della finezza di quella porcellana di Sassonia in cui era modellata anche la duchessa. Ricordavo anche il suo affetto per me, il suo modo tenero, sentimentale di esprimerlo, e mi dicevo che persino questo, da cui qualcun altro si sarebbe lasciato ingannare, significava allora tutt'altro, anzi tutto il contrario di ciò che adesso scoprivo. Ma quando risaliva? Se all'anno in cui ero tornato a Balbec, come mai non era venuto una sola volta a trovare il lift, non me ne aveva mai parlato? E quanto al primo anno, com'era possibile che si fosse interessato a quel ragazzo, appassionatamente innamorato di Rachel come era allora? Quel primo anno avevo trovato Saint-Loup del tutto particolare, come erano i veri Guermont. Ebbene, era ancora più speciale di quanto avessi creduto. Ma ciò di cui non abbiamo avuto l'intuizione diretta, ciò che abbiamo saputo soltanto da altri, non c'è più modo, è passato il momento di farlo sapere alla nostra anima. Le sue comunicazioni con il reale sono chiuse, dunque non possiamo più godere della scoperta, è troppo tardi. Del resto, questa mi dava in ogni modo troppo dolore perché potessi goderne spiritualmente. Certo, dopo quello che mi aveva detto Charlieu in casa di Madame Verdurin a Parigi, non dubitavo più che il caso di Robert non fosse quello d'una quantità di persone da bene e prese anche fra le più intelligenti e le migliori. Saperlo di chiunque altro mi sarebbe stato indifferente, di chiunque, tranne che di Robert. Il dubbio insinuato in me dalle parole di Aimé appannava tutta la nostra amicizia di Balbec e di Doncières, e sebbene io non credessi all'amicizia, né d'averne davvero provata per Robert, quando ripensavo a quelle storie del lift, del ristorante dove avevo fatto colazione con Saint-Loup e Rachel, dovevo fare uno sforzo per non piangere. Non sarebbe comunque il caso di indugiare su quel soggiorno che feci nei pressi di Combray e che fu forse il momento della mia vita in cui pensai di meno a Combray, se proprio per questo non me ne fosse venuta una verifica almeno provvisoria di certe idee che avevo avute per la prima volta dalla parte di Guermont e anche una verifica di certe altre che avevo avute dalla parte di Méséglise. Rifacevo ogni sera, in un altro senso, le passeggiate che facevamo a Combray quando, di pomeriggio, andavamo dalla parte di Méséglise. Adesso, a Tansonville, si pranzava un'ora in cui allora, a Combray, si dormiva già da un pezzo. E a causa della stagione calda, e poi perché di pomeriggio Gilbert dipingeva nella cappella del castello, non si andava a passeggiare che un paio d'ore prima di pranzo. Al piacere d'una volta, che era di vedere, tornando, il cielo di porpora inquadrare il Calvario o immergersi nella Vivonne, subentrava quello di mettersi in cammino quando era già buio, e nel villaggio non si incontrava più che il triangolo azzurrognolo, mobile e irregolare delle pecore che tornavano all'ovile. Capitava che Gilbert mi lasciasse andare senza di lei e che io procedessi, lasciandomi dietro la mia ombra, come una barca che prosegue la sua navigazione attraverso distese incantate. E più delle volte mi accompagnava. Spesso le passeggiate che facevamo ora erano quelle che facevo allora bambino. E come avrei potuto non provare, più viva ancora che un tempo, dalla parte di Guermantes, la sensazione che mai sarei stato capace di scrivere, cui si aggiungeva ora quella che la mia immaginazione, la mia sensibilità si fossero affievolite, vedendo quanto poco ero curioso di Combray. Mi immalinconiva vedere quanto poco rivivevo i miei anni d'allora. Dall'alzaia la Vivonne mi sembrava stretta e brutta. Non che trovassi inesattezze materiali di qualche importanza in quel che ricordavo, ma separato dai luoghi che m'accadeva d'attraversare da tutta una vita diversa, fra me e loro non c'era quella contiguità da cui nasce, prima ancora che ce ne accorgiamo, l'immediata, deliziosa e totale deflagrazione del ricordo. Non capendo bene probabilmente quale ne fosse la natura, mi rattristavo al pensiero che la mia facoltà di sentire e di immaginare fosse diminuita, visto che quelle passeggiate non mi davano più piacere. La stessa Gilberte, che mi capiva meno bene ancora di quanto non mi capissi io, aumentava la mia tristezza, condividendo il mio stupore. «Ma come? Non provate niente?» mi chiedeva, «a salire per quel sentierino che percorrevate una volta?» E anche lei era talmente cambiata che non la trovavo più bella, che non lo era più per niente. Mentre camminavamo vedevo cambiare il paesaggio, bisognava superare dei poggi, poi i dislivelli s'attenuavano, parlavamo, in modo per me molto gradevole con Gilbert, non senza difficoltà, tuttavia. In tante persone vi sono strati diversi, non omogenei, il carattere del padre, il carattere della madre, se ne attraversa uno, poi l'altro, ma il giorno dopo l'ordine di sovrapposizione è rovesciato e alla fine non si sa chi separerà le parti, di chi ci si può fidare per la sentenza.